Bella stronza, stavolta t'ho sposata. Oh, ma che bel matrimonio sarebbe, con quello lì che rompe i coglioni con sta musica. Sappi che una vera signora la ama la musica. Non ama solo pigliare cazzi 20, lunghi 20 centimetri. Fai un po' la signora anche te, visto che mi chiedi di fare sono il man. Sono una leggenda che si presenta solo quando la notte spenda. Meglio che ti accenda. Spenta per favore nella mia stanza. Non starmi lontano, baby, se no sono l'incubo che avanza. Rimani qui con me nella mia stanza. C'è da pulire per terra. Muoviti, schiava. Oppure... Oh, ma che bella mostra, signor tesoro, caro mio. Di chi ne vorrei fare questa via con te nell'oblio. Decidi tu se essere libera o schiava, se sai fare solo pulizie oppure se è anche brava con un pennello, un pezzo di carta. Se no è quello il futuro che ti aspetta. E avanza nella mia mente la voglia di repare il futuro che ti aspetta. Devi fare qualcosa anche tu se vuoi andare avanti e non andare male, non invecchiare. Voglio una tipa brava, brava a fare tutto quanto serva per essere una vera signora. Hai davanti una star, mica uno venuto su da Marte come quello là. Anzi, una rockstar. Siamo nati per strada, rockstar. Siamo una stella soffusa, we are rockstar, che fa le fusa come una gatta. Sono il micio matto che tra un po' impazza. Chiunque scrive è un po' una rockstar. Siamo no? nati per strada, rockstar. Mica siamo solo una gatta matta, rockstar. Siamo gente con i controcazzi. Vieni a controllare quelli dei nostri ragazzi. Baby, I'm a rockstar. A parte con le conoscenze, possiamo fare a mani comunque. Rockstar. Non mi servono armi o qualcuno da chiamare. In caso tu mi voglia far del male, mi so difendere abbastanza, cazzo. Te ne date giù una valanga, pezzo, rockstar. E che tu rimanga quello e basta, soltanto quel pezzo e basta. You are not cool. Di me volete un pezzo di me come attitudine personale, ma se non la, se la prendi su e non sai fare un cazzo, allora diventa la mia difesa personale. Rockstar. In questo gioco sono infernale. Rimango a fare rime come Basquiat con le pitture o le scritture di Dante. Questo è l'inferno, il paradiso e il purgatorio che non sono mai esistiti. Incominciamo. Find the damn. Mi trovai nel mezzo del cammino di nostra vita per ritrovarmi con un culo, una matita. Rimango qui con i miei fra a disegnare. Più la scrivo questa roba, più mi entra nel mio arsenale. Drawing is the paradise. Sono qua per debellare tutti i frocetti, tutte le persone che sono scorrette, che ti danno dei falsi, tutti quelli che cercano di ostacolarti. In questo mondo infernale sono venuto a salvare la mia principessa, rockstar. A insegnarmi in fretta qualcosa che riguarda lo scrivere, per farla diventare una signora, una che riflette stelle a qualsiasi ora, rockstar. Che rimanga tra noi nello snaps, è incredibile come una vera draga, una vera signora. Signora draga, rimane soltanto qua in mezzo a noi sulla tavola un po' di beluga. Amianto? Che cosa fai? Esiti col beluga? Cemento? Roba da mangiare ne abbiamo molta. Rockstar. Che più che una casa sembra un ristorante stavolta. Cemento? Amianto? The rockstar is better.